gran mio con l'essere io tuo, tu mia consorte. Avrò io l'alma in tre. Pensier.

o grido dell'onore, ma avrai sicuro vindice questo talonero. O mio suor, o infamia, o se questo talonero si lavero. O mio suor, o infamia, o se questo talonero. Quest'ontalavero. O mio rimorso infamia, io vissi in tale errore, ma il turpe sonno affrangere il vermi malero. Per poco in cielo acquedati, o grido, grido dell'onore, ma avrai sicuro vindice questo talonero. O mio suor, o infamia, o se questo talonero si lavero. O mio suor, o infamia, o se questo si questo talonero. Questo talonero. Udite or tutti per il mio cor gli affanni, e se voi negherete il vostro aiuto, forse per sempre. Ernani fia perduto. Come rogia dal cespite passito fiore, aragonese vergine, scendea mi voce al cuore, fu quello il primo palpito. Silva stendere, osa su lei la mano, domani trarla al talamo, confida l'inumana. Se la m'è tolta, poi misero da da fanno morirò, da fanno io morirò, da fanno io ne morirò. Rapisca, si arrabbia, ma inseguirci sta l'artica. E il giurò, se ti seguire, quando un uomo in cielo poca, tu ti affetto, tagli allora. Tagli serra in turno in palla e ti ascolto ogni turno. E mi parli la tua bella, e bambi ti fia la stella, sarà bene a tuo valore, sarà mai a tuo valore. Scorderà e capito tu bella e bambino